Il MEMRI è un istituto di Washington che si occupa di analisi di politica internazionale, non è molto conosciuto anche se nel suo sito web riporta grandi e lunghe pagine in lingua italiana, oltre che in molte lingue del mondo. Nel numero di questa settimana il MEMRI pubblica un'analisi molto interessante sulla rivendicazione di Al-Qaeda dell'attentato dell'11 marzo a Madrid. Bene, il MEMRI, un po' controcorrente rispetto alla tendenza generale internazionale di tutti gli analisti, arriva a concludere che se certamente l'attentato di Madrid non è stato compiuto dall'ETA, potrebbe non essere stato compiuto neppure da Al-Qaeda. Questa non è una deduzione di stampo politico o militare, ma un'analisi attentissima del comunicato di Al-Qaeda che è stato fatto pervenire a un media di Londra, nel quale si fa un'analisi del linguaggio di quel comunicato, ma attenzione, non della sua traduzione, proprio un'analisi del linguaggio arabo di quel messaggio, che è completamente diverso da ogni altro. Con questo noi naturalmente non sposiamo alcuna tesi, naturalmente siamo convinti delle bugie del governo spagnolo, troviamo solo interessante, come diffusione dell'informazione, dare anche questo punto di vista. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.